Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar, alle 8:20 minuti. Eccoci qua, cari ascoltatori, cari fumatori diletti. Lo Stato ha pensato a voi da stanotte, c'è l'aumento delle accise per le vostre sigarette. Pensa a quelli che sono andati a comprare di sera le sigarette perché erano rimasti senza. Hanno fatto lo Stato vi pensa, cari fumatori. Dovete pensare che è molto preoccupato per la vostra felicità e quindi adotta una bella strategia. Più vi spremerà in vita, più alla fine il morire sarà lieve. È così. È così. Hanno aumentato le tasse, per chi non avesse capito, sulle sigarette, le accise. Le poste in diretta sulle accise variamente pesano sui tipi e sui prezzi. Comunque, naturalmente, il governo mica vi verranno i dubbi che non è vero che non alzano le tasse, eh? Non fateveli venire mai i dubbi, perché questo non è un aumento delle tasse. Ma siete, sai, voi che pensate male. Non sai è che un su questo, delle... Oscar, c'è la teoria di chi dice viziosi, certo, viziosi, certo, vanno puniti, viziosi. Certo, la benzina no, ma il vizio. Ma questo, figurati, sì. Queste sono strategie di redenzione e di miglioramento dell'animo. Sono delle strategie etiche. Quando ero piccolo io non capivo, ma le sberra che mi dava mia madre, e poi quando passò obiettivamente dal battipanni di vimini a quello di plastica che lasciava più segni, io non capivo. Ma poi crescendo ho detto: mamma, tu sei come lo Stato, mi picchi e vorrei farti finire. Ma poi crescendo cambi idea. Questo per me, questa è l'idea. Io ho un'idea materna dello Stato, perché mia madre aveva, per così dire, le mani un po' pesantine. Però aveva ragione, se non sto scherzando. Io penso che poi essere un po' rigorosi nell'educazione è molto utile. Però mia madre non mi rapinava dalle tasche, questo lo fa lo Stato della diversità. Anzi, magari ti metteva dei soldini ogni tanto nelle tasche. Posso dirti, raramente. In cambio però mi chiedeva com'è giusto, altro criterio. Adesso non voglio fare elogi a mia madre, però insomma mia madre, che è anziana, si merita questo e altri elogi, come le mamme di tutte. Però stiamo parlando di una generazione che ha fatto tali imprese e sobbarcato a tali fatiche sotto la guerra che oggi non so quanti di noi sarebbero pronti. Allora, a questo proposito, oggi è proprio la, tra virgolette, patrona di Torino, perché è la Madonna della Consolata. La Madonna della Consolata, che è un grande santuario a Torino, che affonda la sua storia addirittura a cavallo tra il 900 e il 1000, e da allora è la grande patrona della città, legata a tutte le vicende, gli assedi, le guerre e così via. Chi è di Torino, conosce Torino, sa l'importanza di questo santuario, quanto ha contato e conti nella vita della città. E oltre alla Consolata però sono anche due beate margherite, non ti vorrei annoiare, ma per dirti che, come i tanti Sant'Alessandro, anche le sante beate margherite sono, che io devo festeggiare, cara moglie, anche regali, oggi regali copiosi, esattamente, generosi. Ci sono ben due. Allora, oggi che cosa è avvenuto nella storia? Oggi è la giornata mondiale delle Nazioni Unite dei profughi, e mi pare che purtroppo in Italia la onoriamo con sbarchi ogni giorno. Ma detto tutto questo, oggi nel 78 Andreotti celebrò il famoso frase di Talleyrand, però volgendola a proprio vantaggio, dicendo che il potere logora, ma chi non ce l'ha. È una frase intramontabile di Andreotti. Pensa che nel 1991 Berlino oggi diventava capitale della Germania. Mi ha sempre colpito il fatto che quando si trattò di deciderlo, i tedeschi, che molti rimproverano di essere degli alteri, dimentichi di ciò che hanno fatto nella storia, tanto avevano dubbi sul fatto di tornare alla capitale del Reich, che passò per pochissimi voti, solo per 338 voti contro 320. Questo per dire, e la vera ragione era, ma non è che poi fuori ci dicono che torniamo a voler fare appunto quelli di un tempo, questo per dire. E detto questo, oggi compiono gli anni sia Nicole Kidman che il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Chissà, la teatralità forse un po' li unisce. Mamma mia, sei veramente... forse. Sei malandrino, forse. Forse. Magari invece Nicole Kidman è un ottimo sindaco dalle parti della chi California. Lo sappiamo. Oppure magari De Magistris ha bisogno di un po' di Botox. Si potrebbe dire anche questo. Chi lo sa. Dai, le 8:24 minuti. Allora, qua Oscar, vedi che dobbiamo abituarci al fatto che le notizie come quelle di Londra, Parigi, in alcuni casi non finiscono neanche come titolo di prima pagina sui giornali. È diventata veramente... è diventata una cosa, un'autobomba in Francia. C'è stato invece questo primo, secondo me, anche rischiosissimo a Londra, tentativo di vendetta posticcia fanatica. Sono di, d'accordo con te, perché se inizia una catena emulativa del tipo loro a noi, noi a loro... Questo infatti è il rischio peggiore poi dopo, quello di dare adito a questo tipo di iniziative. Tra l'altro è bene, secondo me, ed è giusto sottolineare che sia stato l'imam della moschea a evitare il linciaggio a questa persona gallese che ha deciso di farsi giustizia da sé, no? Come si dice in questi casi. Tra l'altro fatto vero, perché ieri immediatamente sui social, anche questo mi ha colpito e allarmato, immediatamente c'erano le reazioni di chi dice: ah, figurati, adesso partono i buonisti. No. Tutti un po' calmi, cioè se neanche i fatti veri vi inducono a riflettere, è un ulteriore motivo di preoccupazione. Quindi secondo me solo è avvenuto, come dice Alessandro, molto positivo, come dice Alessandro, e rifletteteci invece di pensare che sia un complotto di falsi. Questo sì. Comunque 800 24 00 24, noi non è proprio di questo che vogliamo parlare, vogliamo approfondire una storia. Detto che andiamo avanti fino alle 9:30, avremo ospite Matteo Salvini dopo le 9, quindi parleremo anche di politica, attualità e anche ius soli, se volete, eccetera. Però ieri ci ha colpito, ha colpito soprattutto molto, la storia di Dodore Meloni. Sì. Chi è Dodore Meloni? La gente forse non lo conosce. È un indipendentista sardo, cioè un signore che da tempo, da anni, si batte per l'indipendenza soprattutto dell'isola di Maldiventre, che lui ha anche, diciamo, fisicamente, plasticamente conquistato, no? In uno sbarco come simbolo, simbolico, come indipendentista sardo. Adesso qualcuno a casa dirà: ma di cosa parlate? Cose senza senso. Il problema è che nelle radici storiche italiane di un paese che è arrivato all'unità tardi e male, scusatemi, perché tanto l'unità l'abbiamo fatta nelle trincee con 600.000 morti la prima guerra mondiale, adesso è noto che è così, però poi abbiamo inventato il mito nazionalitario, l'impero, una serie di fesserie. Ma detto tutto questo, io da sempre mi attira chi ha questo ideale, ma soprattutto chi è capace di una coerenza tale di dire: lo voglio testimoniare pubblicamente accollandomi l'onere di leggi che considero ingiusto, carceratemi, condannato. Cioè, guarda che sono cose che a dirle sembrano in tanti anni di Lega, quante volte abbiamo, ma a farle poi è diverso. No, perché l'epilogo, nel senso dal punto di vista della vicenda, è che Dodore Meloni è in carcere, sta scontando una condanna definitiva per evasione fiscale, e da 50 giorni non mangia. Esatto. E dice, o meglio disse qualche anno fa: io per il mio ideale farò la fine di Bobby Sands, no? Che è morto in carcere dopo un lunghissimo sciopero della fame contro gli inglesi. Quindi stiamo parlando, per essere chiari, di gente che viola le leggi come testimonianza pubblica. Non stiamo parlando di terroristi, di gente che ha fatto, non è niente a che vedere. Poi ci sono forme diverse di indipendentismo, no? Voglio dire, ma è chiaro. Qui stiamo parlando semplicemente di una coerenza che mette la trasgressione di un ordinamento in cui non si riconosce al centro di un'azione pubblica e ne paga le conseguenze. Allora, io queste persone le considero delle persone straordinarie, perché sono fondamentalmente convinte di un diritto naturale violato, però su questo accettano di pagare le conseguenze. Un tempo ho sperato che per le tasse si potesse fare così in Italia in tanti, mai, a chiacchiere tutti, ma poi di fatto non è mai avvenuto. C'è gente che però su queste cose così lo fa. E questo è il punto che te lo rende, diciamo, più stimabile. Sì, io penso che ogni tanto bisognerebbe organizzarsi dal basso, ma esponendosi pubblicamente alle conseguenze. Questo sempre detto, questa è la differenza, no? Non è che fai evadi e dici: io lo faccio perché sono oltre lo Stato. No, allora è meglio che ti perseguano. Oppure non è che dici: evado e non mi beccano, sto zitto. Esattamente. Se sei contrario, devi dire: siccome io quella norma, quest'altra, la questione ingiusta, pubblicamente io e tutti quelli che la pensano come me dico: non la paghiamo, perseguiteci, ma diventiamo esempi di questo. Allora, questo signore, il signor l'odore Meloni è in carcere e non mangia, e secondo me vale la pena parlarne. L'Italia è fatta minoritarissimamente di persone così. Con noi c'è l'avvocato di Dottore Meloni, Cristina Puddu. Avvocato, buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. C'è anche il professor Marco Bassani, che insegna storia delle dottrine politiche all'Università di Milano, alla Statale di Milano. Buongiorno, professor Bassani, grazie. Buongiorno, buongiorno. Allora, avvocato Puddu, intanto la situazione è davvero questa, cioè perché rifiuta di mangiare Dottore Meloni in carcere? Il suo rifiuto, il suo sciopero della fame e della sete, che dura ad oggi da 54 giorni, dipende dal fatto che si è dichiarato detenuto politico belligerante, nel senso che contesta l'accanimento giudiziario di natura politica al quale è stato sottoposto in questi 8 anni, perché ha avuto non soltanto il processo per il quale la condanna è stata ormai divenuta definitiva e che adesso sconta, ma a suo carico oltre 24-25 procedimenti penali, tutti sorti successivamente appunto ai fatti di cui avete ricordato, che riguardarono l'isola di Maluentu, di Mal di Ventre, del 2008. Da quegli anni a oggi, anzi, 6 o 7, perché ormai di nuovi non ne ha, ma bastano quelli che ci sono in corso, sono appunto 24-25 procedimenti penali a suo carico. Sono tutti casualmente spuntati dopo quella azione dimostrativa, dopo quell'occupazione. Ma qual è il motivo per cui è una condanna definitiva per evasione fiscale quella che sta scontando? Sì. Cioè non ha pagato le tasse, si è rifiutato di pagare le tasse? Da degli accertamenti della Guardia di Finanza sarebbe risultato che in alcune società, delle quali non ha nemmeno quote societarie e per le quali è stato imputato come amministratore di fatto, risultava una tenuta della contabilità non fedele, o comunque mancati versamenti dell'IVA, tutti, almeno se dobbiamo entrare nel merito della questione, spiegabili col fatto che anche le società appunto di cui si trattava erano state comunque colpite dalla crisi generalizzata, non avevano per esempio neanche la possibilità di farsi sostenere la contabilità da degli studi professionali, e quindi evidentemente qualche errore è stato anche verificato. Uno dei pochissimi casi, Oscar, di persona che va dell'IVA e comunque che non dichiara l'IVA e finisce in carcere. Certo. Oltretutto, questo era l'IVA. Era l'IVA delle società, ma come avete ricordato, l'evasione fiscale da parte di un indipendentista puro come lui non è un'evasione, ma è una disobbedienza fiscale, è un modo appunto di protesta contro lo Stato del quale ci si vuole liberare. Questi sono i fatti nella Allora, io, cari ascoltatori, ripeto, riflettete, come lo Stato tratta questo indipendentista e come lo Stato tratta. Posso fare un esempio di oggi, tanto per sembrare uno che confonde le mele e le pere, ma io invece sono convinto di quello che dico. Pensate, oggi non c'è giornale italiano da 2 giorni che non scriva, cari ascoltatori, che il governo silura l'amministratore delegato della Consip solo per evitare l'imbarazzo a Lotti, di cui è accusatore il ministro Lotti, e a Renzi. Tutti i giornali italiani hanno solo questa versione, perché è solo così, non ce n'è un'altra. Eppure è quello che sta avvenendo. Allora, se un governo, lo Stato, silura l'amministratore delegato di un'azienda pubblica per non imbarazzare un partito e un ministro di un partito, nel frattempo riserva a chi pubblicamente lo contesta la galera. Allora, ecco, io dico solo questo. Pensate alle due pesi e due misure. A me colpisce, sarò io minoritario, però a me colpisce. No, colpisce anche, cioè non capisco perché ci sarebbe un accanimento nei confronti del suo assistito, avvocato Puddu, che non è una persona, come dire, famosissima, non è una persona che ha creato degli sconquassi istituzionali, non è che, come dire, ha aggredito nessuno, non è che va a manifestare in maniera violenta nei confronti di chi che sia, quindi... È un po' stupefacente il fatto che la vicenda sia trattata così, o no? È stupefacente arrivati ad oggi, nel senso che questo trattamento infatti è veramente scandaloso, è una vergogna, perché è un uomo di 74 anni che appunto adesso si trova in cella, al 54esimo giorno di sciopero. Non è un uomo violento assolutamente, ma è un uomo in qualche modo che disturba, la cui presenza disturba, ha sempre disturbato nell'ambito dell'indipendentismo sardo, perché avete detto che da tanti anni, lui appunto ha 74 anni e da che era ragazzo ha portato avanti questo suo ideale, che non è un sogno fantastico, è veramente un diritto al quale lui si è sempre appellato in base alle norme internazionali sull'autodeterminazione dei popoli, che l'Italia ha, anche se in ritardo sempre, ma ha ratificato, e che quindi adesso fanno parte dell'ordinamento giuridico dell'Italia, che deve essere rispettato e che l'Italia stessa deve rispettare. Se invece nega la possibilità alle popolazioni minoritarie come il popolo sardo di promuovere un percorso legittimo teso all'indipendenza, questo naturalmente lo fa contrastando le persone e gli uomini come Dottore Meloni. Professor Bassani, lei ha ascoltato ovviamente la storia, non so se la conosceva la storia di Dottore Meloni attraverso il suo avvocato. Ci chiedevamo ieri con Oscar Giannino dove fossero finiti tutti questi movimenti indipendentisti e autonomisti che magari nella Lega, soprattutto primordiale, erano molto forti come dichiarazioni. Però a un certo punto sembra che l'Italia fosse un fiorire di Catalogna e poi è sparito. Sì, tutto. Esatto. Adesso ci sono, Dottore Meloni, ricordiamo Eva Kloz, l'abbiamo spesso ospitata qui, che combatte qualche da anni. Venetista. Certo. Qualche venetista, ma venetista poi... sembra sia una malattia. Esatto. Veneto, proprio, sembra quasi una malattia a trasmissione neanche tanto simpatica. Insomma, io credo che in breve tempo sarà un pullulare di Catalogna, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Voi pensate che nel 500 c'erano 500 entità semi-autonome, semi-sovrane, né autenticamente autonome né sovrane. All'inizio del 900 c'erano 19 stati su questo territorio che è l'Europa. E adesso cominciano a essere molti di più. Solo che sono nati quasi tutti ad est, nei luoghi post-comunisti. In Occidente non si è mosso nulla. Quello che sarà il muro di Berlino dell'Europa sarà la Catalogna con ogni probabilità, cioè l'inizio di un movimento di secessione a catena. Per ora, naturalmente, alcuni di questi personaggi, io conoscevo questa storia e faccio tanti cari auguri sia all'avvocato, naturalmente, che soprattutto alla persona che in questo momento è sottoposta a questa vessazione, reato fiscale, insomma, sono cose che vengono contestate sì e no a poche decine di persone ogni anno. Però questo ha un'apparenza che ha qualche cosa di un pochino locale, no? Anche solo chiamatelo Salvatore. Io, se posso dare un consiglio agli amici sardi, chiamatelo Salvatore, perché non è molto tipico questo chiamarlo, no? Col suo come dottore, ci ha chiamato Salvatore, anche Pepin Insegato, che ha passato anni in carcere e non aveva fatto nulla, assolutamente nulla, se non reati d'opinione, chiamatelo Giuseppe, perché deve venire fuori la cosa del Mario Rossi della Sardegna, del Mario Rossi del Veneto, che vogliono l'indipendenza per salvarsi da un disastro di nome Italia. Sì, però in realtà cosa vediamo, per esempio il referendum in Veneto per l'autonomia, il referendum ci sarà in Lombardia, però sono misure non efficaci, professor Bassani. Non sono neanche referendum, sono delle cose che chiedono: volete che noi usiamo tutti i poteri che già la Costituzione dà a noi? Usate. È una domanda abbastanza bizzarra, francamente. Oltretutto, no, c'è un problema reale, cioè il vero ciò che muove questo paese sono i soldi dei Lombardi, dei Veneti e dell'Emilia. Il residuo fiscale di Lombardia, Veneto e Emilia, che è un circa 90-95 miliardi ogni anno, è ciò che muove l'intero paese. I Lombardi, Veneti ed Emiliani pagano il socialismo degli altri, sono costretti ad avere un liberismo selvaggio perché la loro spesa pubblica è intorno al 35%, affinché la Calabria, la Sicilia, altre regioni e la Campania abbiano una spesa pubblica del 70% di ciò che producono. Quando questa cosa verrà fuori con chiarezza, secondo me alla fine si faranno i conti. Senta, avvocato Puddu, ma davvero al 50° giorno di sciopero della fame, della sete è un po' improbabile, lei ha detto anche della sete, forse la sete no, non si può vivere 50 giorni senza sete di giustizia. Sì, è sete di giustizia forse. Dice il professor Bassani. Esatto. Avvocato Puddu, no, perché 50 giorni senza bere non è molto credibile. prevedibile, nel senso che al 54esimo giorno oggi non può, anche volendo, non può assumere liquidi perché il suo organismo li rigetta. Quindi l'unica fonte di idratazione è stata nell'arco di questo tempo qualche flebo di soluzione fisiologica che gli è stata somministrata, ma veramente non ha più la possibilità di mantenere i liquidi in corpo. Ma è vero che ha detto a lei le sfide della vita non si possono lasciare a metà, cioè è pronto a tutto, ecco. Ma guardi, per darle un'idea della persona, è pronto a tutto non da oggi, è pronto a tutto da sempre, perché appunto è un indipendentista da tempo, veramente da mezzo secolo, ed è pronto nel senso che ha seguito tutto questo percorso. Il professore parlava dell'esempio della Catalogna. Dottore Meloni conosce benissimo e sa le vicende storiche europee e mondiali, capisce bene e ha sempre dichiarato che l'indipendenza della Sardegna sarebbe arrivata grazie all'indipendenza appunto di popoli come quello scozzese, come quello catalano, i corsi e altri, proprio perché c'è questo fermento europeo verso l'indipendenza dei popoli minoritari. E quindi il modello, sicuramente il modello storico occidentale che sta collassando, era quello a cui lui faceva riferimento. La sua protesta, il suo stato di salute e il dire che appunto le battaglie della vita non possono essere lasciate a metà, questa è una sua filosofia da sempre, e questo lo tiene appunto anche in vita, perché gli dà la resistenza, la forza, sapendo appunto di condurre una battaglia anche che lo può portare alla morte, sì, gli dà però la forza appunto di resistere, perché senza i sacrifici, come dice, non si arriva a risultati importanti. Avvocato, solo una domanda così da fan, io conoscevo la storia di Dottore, ma che chi ci ascolta, se ritiene, può fare qualcosa? Ci sono forme di sostegno alla famiglia, eccetera? Come avvocato glielo chiedo, qualunque cosa, certo, ci dica che cosa si può fare per chi vuole. Sì, il sostegno è anche questo, così come stiamo facendo questa mattina, da parte vostra, aver dedicato attenzione a questa vicenda, e anche gli ascoltatori nelle loro capacità, nelle loro possibilità, possono divulgare questo fatto, perché lui dichiarò anni fa che avrebbe fatto la fine di Bobby Sand, effettivamente arrivato oggi al 54esimo giorno, a 74 anni, il rischio è veramente alto. Bobby Sand morì dopo 66 giorni ma aveva 27 anni, quindi la situazione, ripeto, è veramente critica, pericolosa. Sì, è critica. Noi intanto la ringraziamo e vi ringraziamo, sì, Cristina Puddu, l'avvocato di Dottore Meloni, e Marco Bassani, professor Marco Bassani, che insegna. Io vi ricordo che in autunno Milano riparte la faccenda, perché sì, certo, con la Catalogna loro vogliono comunque riprendere la faccenda, qualunque cosa faccia, pensi Madrid, quindi in autunno riprende il cammino. Il professor Bassani ci dice che da lì sarà una sorta di effetto domino, proprio a partire dalla Catalogna. Io penso europeo, che abbia abbastanza ragione, poi vedremo, come sempre, tante volte su queste cose lo statalismo ha vinto, perché lo statalismo ha il potere in mano coattivo, e quindi, però vediamo, perché non mi pare che i catalani siano tanto disposti a abbassare le bandiere. Andiamo un attimo in pubblicità, poi riprendiamo da qui gli ascoltatori, tanti altri temi, state con noi. State ascoltando un programma offerto da... Per gestire le risorse umane ci vuole experience, scoprila su inaz.it. 24 mattino, attenti a noi due. Allora Oscar, guarda che poi quanti ascoltatori su temi che magari appaiono un po' più di nicchia invece, no? Sono interessati a dire la loro. Pasquale da Bari, buongiorno Pasquale. Buongiorno a voi signori, grande fan. Allora niente, io credo nell'autodeterminazione dei popoli, che sia un concetto dentro ogni umano. È l'esempio pratico della Repubblica Ceca, Cecoslovacchia e Repubblica Ceca. Domando io, non vi pare che politicamente sia fallito il progetto Unità d'Italia? Non credete che ogni regione senta effettivamente l'autodeterminazione, come in Catalogna? Soltanto adesso in Italia sta venendo fuori, visto che abbiamo un'unità che rispetto agli altri paesi abbiamo meno anzianità di servizio, che viene fuori. Pasquale, forse in ogni regione ci sono dei movimenti, adesso dire che questi movimenti rappresentino la maggioranza. No, la mia è una provocazione, così come c'è l'indipendenza, il movimento di indipendenza sarda, che è ormai da tempo rispetto al resto dell'Italia. voglio dire, no? Ci sono in varie regioni, ma appunto abbiamo ricordato in Veneto, in Alto Adige, anche in Sicilia, ci saranno anche in Puglia, immagino, Pasquale. Io inizio dal mio trullo, incomincio il movimento, no, perché si sente, cioè, c'è sempre rabbia, no? Cioè tu sei del nord, tu sei del sud, il nord campa il sud, e c'è sempre questa miscredenza in realtà, perché poi, come detto prima, dati alla mano, magari le cose non sono proprio così, ok? Quindi io dico che secondo me il progetto Italia voluto da Carlo Marx e così via, la storia ci insegna. Ma voluto non lo so, più un caso che voluto, guardi, come sempre, perché pensavano che i garibaldini si inabissassero, si fermassero, quindi è stato un caso, insomma. Il processo di unità italiana non è il tenace frutto di una casa regnante che per secoli, come in Francia, combatte contro i britannici, non è così, è un caso, una necessità, Jacques Monod, insomma, scegliete voi. Però detto questo, io sono molto convinto sul fatto che il bilancio della troppo recente unità italiana, fatta male, con l'accentramento bestiale all'inizio, ricordiamo la legge amministrativa 1865, poi il fascismo, perché i liberali vengono travolti, perché non sono in grado di gestire l'Italia complessa dove i socialisti e i cattolici entrano sulla scena politica, poi il fascismo, poi la Repubblica, anche qui centralismo, poi si dice che decentriamo, sommiamo il centralismo e il cattivo decentramento, perché questo è il nostro ordinamento attuale, purtroppo, cioè sommiamo i costi di entrambi senza avere i vantaggi di un modello o molto decentrato o molto centralista. Io credo che il nostro ascoltatore un po' abbia ragione, solo che a dirlo si passa per lunari, sì, no? per fascisti, no? Bravo, hai ragione, proprio così. Mi veniva fascisti, ma era sfascista. Sì, perché fa, come metti in discussione la sacra unità italiana? Ma io metto in discussione come è fatta, cioè molto male, ecco, tutto qui. C'è Andrea dalla provincia di Arezzo, buongiorno. Buongiorno, un po' quello che volevo dire l'avete già detto, cioè un'unità d'Italia secondo me è fatta tardi e male, come dice Giannino, anche prendendo a modello, secondo me un modello sbagliato, cioè è stato preso a modello la Francia, sì, con un modello molto centralista, e qui un po' la colpa secondo me è dei piemontesi. Sì, no, ma è così. Ma Oscar se la tiene. 1865 le leggi amministrative vengono fatte sulle cose napoleoniche, così. Mentre bisognava prendere a modello forse la Germania, che era più simile a noi. Credo che lei abbia ragione. E vabbè, insomma, Andrea, anche lei, insomma, come l'ascoltatore di Bari, ribadisce. Spero nel ritorno del Granducato. Ecco, io non sono per il ritorno dei Savoia, ve lo dico subito, ma capisco chi nelle regioni italiane ragiona un po' così. Capisco, e penso che l'errore della cultura, tra virgolette, alla Gai della Loggia, per capirci, sia quello di aver sempre considerato questi fenomeni come poco più di colore su cui la politica soffia. È chiaro che la politica ha soffiato per interessi. Però, perché numericamente ci sono poche persone che li seguono, e quindi sì, nel momento numericamente in cui diventano... ci sono poche. Però il motivo del scontro politico resta sempre sul modello centro-periferia, è permanente questa storia, i fondi che mancano, le province, oggi i giornali sono pieni, no? Di nuovo, e tutto ruota su questa faccenda qua, purtroppo. Le province che chiedono soldi, altrimenti sono costrette a chiudere scuole, chiudere servizi, strade. Irzak ci chiama dalla provincia di Bari, buongiorno Irzak. Un grandissimo saluto a Oscar, Giannino e soprattutto ad Alessandro Donnarumma, scusa, a Milan. Bravissimo. Niente, io in pratica volevo fare tre esempi, ma Oscar già ha detto un sacco di cose, come al solito. Da una parte vorrei dire che sono da 25 anni che sto in Italia, ho 28 anni, e sinceramente da una parte mi vergogno anche di chiedere soltanto la cittadinanza italiana, ma per il semplice motivo... Ma di dov'è lei, Irzak? Io sono albanese. Albanese. Ma per il semplice motivo, non per altro, ma per il semplice motivo che si sente, soprattutto anche da lei, Alessandro Milano, da stamattina, dalla signora là che diceva no, ma non sono italiani perché i genitori non sono italiani. La Lussana, io ho un figlio, sì, io ho un figlio con una... sono sposato con un'italiana, ho un figlio e gli ho dato la cittadinanza italiana. Ma solo perché la mia moglie è italiana, se no doveva essere albanese mio figlio. Ma questo veramente, stiamo veramente al ridicolo proprio. E lei lo trova sbagliato, cioè lo troverebbe sbagliato. Cioè perché... È sbagliato, non si distingue una persona dal sangue, ma si distingue dalla cultura, da come viene educato, da ciò che percepisce di educazione, da come si comporta. Ma è una straordinaria parlata barese. È 25 anni, sai, certo, mica uno. Fantastico. Noi si dice che se non impari bene il dialetto, la moglie capisce per face. Non so se mi sto spiegando. No, bene, bene, direi di sì. Quindi per me, sinceramente, anche quando sento quarto grado la sera, tutte queste cavolate, sinceramente mi cambio canale, perché non è possibile che una persona deve essere distinta per il sangue che porta dentro e non per come si comporta. Per la cultura, certo, per la cultura, per l'ambiente in cui nasce, in cui ma cresce. Ma soprattutto anche come si comporta. Se io mi sono integrato benissimo, se io ho una famiglia, ho un anche famiglia albanese, io mio figlio l'ho battezzato in Italia, anche se comunque di origine sono musulmano. Ma comunque deve scegliere lui un domani. Domani sceglie lui cosa vuole fare, essere musulmano, ortodosso, cattolico. Intanto sto in questo paese, gli voglio far continuare le pratiche di questo paese, i comportamenti di questo paese, perché io sto benissimo in Italia. Mangio, bevo, lavoro, pago le tasse, anzi forse ne pago purtroppo. Come tutti. Un po', no, ma rispetto a qualche italiano, tra virgolette qualche, scusate se parlo così, ma sono un po' arrabbiato, le pago, il proprietario per me paga il doppio, quasi, perché sono straniero. Sì. Vabbè, Irzak, si fermi qui, ci ha dato una lezione. Allora, una lezione consultante. Che come vedi cose. Unisce identità, territorialità, nazioni e cittadinanza. Allora, noi andiamo avanti fino alle 9.30, quindi Davide da Catania, se ha pazienza qualche minuto, anche sarà il primo ascoltatore a intervenire subito dopo. Poi dopo, a proposito di questi temi, c'è Matteo Salvini. C'è Matteo Salvini. Matteo Salvini, sì. E parlare anche di politica, attualità. State con... I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. Una cosa perlomeno dovrebbe essere certa: le parole pronunciate ieri di fronte all'Assemblea Annuale di Confesercenti dal Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, almeno dicevamo su questo si può essere d'accordo, sono state di una chiarezza esemplare. Calenda infatti ha detto che la priorità dal punto di vista delle politiche per rilanciare i consumi del paese, la priorità è abbattere il carico fiscale sulle imprese, che costa immensamente meno rispetto al taglio dell'IRPEF. Calenda ha anche aggiunto che chiaramente se vi fossero le risorse sarebbe importantissimo anche abbattere l'IRPEF, ma ha poi motivato con un ragionamento la sua dichiarazione. Ridurre l'IRPEF non dà garanzie di un aumento dei consumi e dei consumi nazionali. Diversamente, invece, secondo Calenda, ridurre la tassazione sulle imprese porterebbe in automatico a liberare delle risorse e, aggiungiamo noi, a maggior ragione se la tassazione sulle imprese fosse ridotta in maniera sensibile a partire dai neoassunti. Ovvio che da un punto di vista politico ed elettorale, lo capiamo tutti, ridurre le tasse alle imprese, a partire dalle piccole imprese artigiane del commercio, rende probabilmente meno voti che non ridurre genericamente l'IRPEF. Ma il ministro è sembrato fare un ragionamento più economico che di carattere elettorale. Un ragionamento che i più maliziosi hanno voluto leggere anche come una critica indiretta all'operazione ormai famosa degli 80 euro voluti dall'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui alle 9 e 5 minuti. Sapete che andiamo in diretta fino alle 9.30? Sì, tu Oscar, siamo noi, lo sai. Siamo, sì, noi, siamo, sì, noi, siamo noi, quindi io ritengo di essere consapevole. Di essere... C'è Davide da Catania che è premiato anche solo per la pazienza e che è con noi. Buongiorno Davide. Sì, buongiorno a voi. Io capisco le invettive di Oscar contro lo Stato ladro. In effetti abbiamo una pressione fiscale altissima. Ma d'altro canto è pur vero che la coperta è corta e parlo da fumatore. Aumentare le accise a tabacco, gioco d'azzardo o altro, penso che possa essere una soluzione, non l'unica certamente, ma non ci trovo nulla di male. E ripeto, parlo da fumatore accanito. Da uno che questa mattina andrà a comprare il pacchetto e comunque, esatto, sa che dovrà pagare tra po' di più. Vabbè, quindi un cittadino. Io vedi, Davide, io lo capisco e apprezzo, e ovviamente rispetto il suo punto di vista. Io rispetto il punto di vista di tutti coloro che, per esempio, ritengono che io sbagli, perché non è vero che poi la pressione fiscale è eccessiva, c'è anche la Francia che ce l'ha più di noi, sì, appunto la Francia, poi fine, però. Però detto tutto questo, nel rispetto quindi dell'opinione di tutti, mi invito a riflettere su un punto delicato, perché su queste tasse sul vizio, no? Se vediamo per esempio l'evoluzione del tempo che ha avuto la tassazione sul gioco, cosa abbiamo capito? Che lo Stato è stato molto abile a giocare con due mani diverse. Da una parte ha graduato nel tempo le aliquote in maniera tale che il gioco legale si è espanso, cioè stiamo parlando di una roba che vale più di 100 miliardi di euro l'anno. Quindi da una parte si dice la tassa sul vizio così è etica. No, perché l'esperienza ci ha mostrato che a quel punto l'interesse dello Stato è alimentarla sempre di più, differenziare le aliquote alte sui vecchi giochi, bassissime su quelli nuovi tecnologici, in maniera tale che la gente entri su quelli. Allora, in base a quello, da osservatore, io dico che ho sempre trovato l'argomento tassa, tra virgolette, etica su il vizio più elevata, perché fa meno male, anzi c'è un fine etico. In realtà nell'esperienza si è rivolta al contrario, lo Stato petto ai vizi, perché poi di lì inizia a far troppa entrata per rifiutarci. Però è una considerazione mia personale. Però insomma è la considerazione non condivisa da Davide, da Catania, ma infatti, dice invece io da fumatore come dire, faccio questo sacrificio, cioè capisco che sia giusto colpire più il vizio rispetto che aumentare, cioè sarebbe bene non aumentare le tasse in generale, no, perché quando sono soprattutto così elevate non stiamo parlando di sottrarsi, no, esatto, al minimo, esatto, la questione è che è il riflesso condizionato ogni volta, no? Quando si devono recuperare dei soldi, cosa si fa? Tanto è automatico, immediato. Poi naturalmente si continua a dire che non lo si fa, ecco, io considero questa una cosa proprio insopportabile. Il problema è che Renzi è stato così, ha ripetuto questi mantra così sistematicamente che alla fine l'informazione gli ha dato retta. Poi questo è il bello, perché poi l'informazione è un po' sprovvista del DNA che in altri paesi, caro Alessandro, no? Non fa tremare i direttori di fronte a chi comanda. In Italia abbiamo direttori tremebondi, si sentono fuori dalle loro uffici spesso il rumore delle ginocchia che fanno come nei comics, ecco. È un po' così, io non ce l'ho con nessuno in particolare, perché però ho lavorato con molti e so che quando arriva la telefonata del portavoce di Renzi e dei portavoci di Renzi negli anni, sì, io sono cresciuto negli anni di Craxi, di Andreotti, quindi figurate quante ne ho viste, insomma una bella gara, ecco. C'è Samuel da Bologna, buongiorno. Buongiorno a lei. Niente, volevo intervenire sulle questioni delle cittadinanza civile degli immigrati. Sì. E io sono qui da 1988. Da dove? Io sono della Nigeria. Nigeria. Allora, il problema è come gente parlano a 18 anni, quando hai requisiti, poi a chiedere, poi i figli sono diventano subito cittadini, così via. Ma il problema è in fondo è noi nigeriani, per avere queste cose qui dobbiamo tornare giù a fare fila al nostro ufficio delle polizia per le clearance, sì. No, che ti chiedono soldi. Allora, trasporto, lavoro, sì, figli, certo. Qua non ce l'abbiamo questa possibilità di traghettare da qui al paese. Cioè lei dice c'è troppa burocrazia, vi chiedono costi anche, soldi, e cosa vorrebbe lei, Samuel? No, io ritengo che è molto giusto a dare questi ragazzi che sono cresciuti, hanno cominciato scuola dall'infanzia fino dove sono arrivati e poi non sentono cittadini. Ti dico ancora, mio fratello è stato a Magenta di Milano, si è laureato, si è tornato a casa con la figlia che adesso studia in America, nato a Magenta. Quando è stato lì l'hanno chiesto se è nato in Italia senza documento. perché questa ragazzina si è trovato davanti qualcuno che lo chiede, documento dell'Italia, non ce l'ha, quello è nigeriano perché non, è non sì. si è nato in Italia, e si è trovato in difficoltà. Certo, una difficoltà pratica, concreto, cioè, esatto, perché non aveva documento italiano, non aveva documento nigeriano. Si laurea qua, vai negli Stati Uniti, l'immigrazione che è diventata molto sospettosa, lo sappiamo, dice... Com'è che tu sei andato a Magento, sei figlio di una nigeriana, italiana, che però viene qua, tu non sei cittadino italiano? Una storia pratica che Samuel, nigeriano di Bologna, ci ha raccontato. Come ci ha raccontato prima Irzak, albanese, 28enne, ma in Italia da quando ha 3 anni, che parlava un barese stretto magnifico. Sì. Dicendo che altrimenti la moglie te la perdi. E con un figlio di 3 anni che dice è italiano solo perché ho sposato un'italiana, ma se avessi sposato un albanese non sarebbe italiano, ed era una cosa vergognosa dal suo punto di vista. Sono considerazioni che giriamo a Matteo Salvini, leader della Lega Nord. Buongiorno Salvini e benvenuto. Buongiorno a chi ci ascolta. Di storia così ne ha sentite anche lei, ovviamente, no? Ma perché c'è questa opposizione forte, anche un po' ideologica, questa cosa dello Ius Soli? No, che... Siamo seri? Sì. Cioè, è seria, la trasmissione è vera o è uno scherzo? No, è serissima. Non come quella a cui partecipi spesso il pomeriggio, questa è seria. È seria, è seria. No, ma perché tantissimi immigrati che conosco mi dicono, ma avete un parlamento di gente normale? No, perché il mio problema di albanese, di nigeriano, di romeno, di marocchino, è vivere in un paese un pochino più sereno, dove si pagano un po' meno tasse, senza formiche e scarafaggi in ospedale, e a 18 anni, come accade in tanti altri paesi al mondo, come accade nella multietnica e cosmopolita Olanda, i miei figli, se vorranno, avranno la cittadinanza italiana. Altrimenti i miei figli, che frequentano la terza media con mio figlio che sta facendo gli esami di terza media, non hanno nessun diritto in meno rispetto a nessun altro. Giocano a pallone con mio figlio, vanno in gita con mio figlio, condividono la merendina con mio figlio, e giustamente quando avranno l'età di 18 anni potranno guidare la macchina e potranno votare, potranno anche decidere maturamente e consapevolmente se diventare cittadini italiani o se mantenere la cittadinanza dei loro genitori. Mi sembra un dibattito surreale, con i problemi che ci sono in Italia, non sentito neanche dalla stragrande maggioranza degli immigrati che hanno ben altri problemi, usato dalla sinistra per cercare di ricompattare un mondo politico che si sta frantumando. Perché io non ho ancora incontrato un immigrato nella Milano che conosco, che amo e che frequento, e ne conosco tanti, che abbia questa come sua priorità. Però domanda proprio su quello che ha appena detto Salvini, cioè l'ipotesi è il motivo per cui l'hanno calendarizzato, improvvisamente è tornata la priorità da chiudere più presto, è quello di un segnale politico, però contemporaneamente... Dopo 2 anni e mezzo di nulla si sono appunto ricordati dell'emergenza. E lei a quel punto dice no, è la ragione politica, però avviene contestualmente al fatto che tutti i giornali hanno detto il primo turno delle amministrative è stato chiaro, gli amministratori che non hanno avuto un atteggiamento tra virgolette duro, rigoroso, insomma severo sulla questione di accettare gli immigrati hanno preso la bastonata. Come stanno insieme le due considerazioni? Ma allora non è serio, ma lo fanno perché secondo me, poi sbaglierò, se ci avessero creduto l'avrebbero fatto 2, 3, 4 anni fa, evidentemente lo usano come disperazione elettorale per cercare di portare a votare i ballottaggi elettori di sinistra che schifano ormai questo Renzi e questo PD. L'anno scorso hanno ottenuto la cittadinanza italiana 205.000 nuovi italiani, sono miei fratelli, sono benvenuti. È una questione, ripeto, di coscienza e di volontà di non prendere in giro nessuno. La cittadinanza secondo voi è qualcosa di serio o è un biglietto del Luna Park? Se è qualcosa di serio, a 18 anni, da persona matura e seria, decidi se condividere il futuro e il destino di questo paese, o seppure altre scelte, come è vero che ci sono tanti immigrati che magari ci stanno ascoltando, che hanno 20 anni, 25, 30, 40, che sono qua integrati, lavorano, pagano, ma non hanno nessuna intenzione di avere la cittadinanza italiana per 1001 motivi. Mi sembra veramente una scorciatoia elettorale che vale altre amenità. Io leggevo che prima che la legislatura scada per qualche giornalista e qualche parlamentare del PD è assolutamente fondamentale approvare la legalizzazione delle canne e le adozioni gay. Ora, a me sembra che ci siano dei politici che vivano su Saturno. Questi sono altri... A me la gente chiede di rivedere gli studi di settore, la legge Fornero, di abbassare le accise sul carburante che è il più caro d'Europa, io vi parlo da Bruxelles, di difendere il Made in Italy. Onestamente mi sembra veramente una tempesta che poi secondo me finirà in nulla. Ma sì, come anche i temi però che ha detto lei che qualcuno ha avanzato, cioè non ci sono proprio in questo momento i tempi e le maggioranze. L'agenda del governo, l'agenda del governo la fanno loro. Senta, ma... oggi il Senato parla di Consip, quanti fra gli ascoltatori sanno cos'è Consip, conoscono Marroni, ma perché è una guerra interna al Partito Democratico, cioè, lei infatti ci colpiva a me che Oscar Giannino, quasi mai, che non ne ha mai parlato di Consip, eppure il governo che fa l'interesse di un capo di un partito, perché voglio dire, tutti i giornali non ce n'è uno perché che non dica che è così. Non le interessa il caso Consip? No, io, ma infatti la posizione della Lega oggi sarà chiara: non si cancelli e non si imbavagli chi ha fatto e chi ha intenzione di fare delle dichiarazioni sui legami tra politica, finanza, appalti pubblici, denaro pubblico e malaffare. Cioè l'amministratore delegato Marroni si riferisce. Ma vi pare normale che uno che è un amministratore delegato, tra l'altro nominato da Renzi, appunto, che adesso dice un ministro di Renzi mi ha detto cose che non dovevano essere dette su intercettazioni e quant'altro, adesso lo fanno fuori. Ma dai, siamo veramente... E però di questo si occupa oggi il Senato della Repubblica Italiana. Sì, con sei non mozioni. Si occuperà oggi di ape social, l'aumento dell'IVA. Io sono imbestialito perché sto rispondendo a centinaia di persone, Oscar Giannino lo saprà con me, dicevano cancello gli studi di settore, invece gli cambia il nome, esatto. Indicatori di affidabilità. Sì, lo so, è così. Ma come fai a inventarti gli indicatori di affidabilità? Il gioco di prestigio della politica sulle parole. Le liquidazioni IVA, le fatture emesse, ma siamo veramente... Però Salvini, tornando alla questione di Ius Soli, prendendola dal punto di vista politico, cosa è successo col 5 Stelle o cosa sta succedendo? Perché Di Maio dice con uno e con gente che dice i napoletani, il Vesuvio, mai. Cioè vi siete visti, non vi siete... C'è anche questo mistero, ma no. Anche sta cosa, perché io mi vedo di nascosto con Di Maio, Casaleggio, no? A parte il fatto che non fa parte del mio carattere vedermi di nascosto, e poi se mi devo vedere di nascosto mi vedo con qualcuno che non sia né Di Maio né Casaleggio, onestamente. No, adesso in altre trasmissioni partirebbe la domanda di chi sta parlando, vabbè, passiamo in cavalleria. Sto parlando di Donnarumma e Raiola. Ci dica scherzi a parte. La posizione della Lega sull'immigrazione è chiara: chiediamo regole, rispetto, limiti. Chiediamo che Giandini, Margherita di Piacenza, che ho visitato ieri, siano per le mamme e per le nonne, non per spacciatori o gente male. Con 5 Stelle? Ci sono 5 milioni. Con 5 Stelle io non ho mai avuto nessun rapporto diretto o indiretto. Se me lo chiedessero li incontrerei volentieri, perché io sono curioso per natura e con chi condivide la passione politica nel mio paese. Io vedrei Renzi come vedrei anche Bersani se me lo chiedessero. Che problema c'è? Sull'immigrazione almeno a parole hanno cambiato idea, nel senso che fino a ieri l'altro erano sulle stesse posizioni del Partito Democratico, per cui l'immigrazione non era un problema. Adesso si rendono conto che probabilmente i 2600 sbarcati di ieri ormai non fa più neanche notizia, non so se nei GR c'è, però ieri sono arrivati in Italia 2600 persone, al 90% la suefazione oramai è così, ormai non fa più notizia, quando invece in un paese normale 2600 arrivi sono un paese, dove li metti, cosa fai, che futuro hanno? Noi ce lo poniamo il problema di questi 2600, Alessandro e Oscar, i dati dicono che coloro che saranno riconosciuti come profughi sono l'estrema minoranza, la maggioranza assoluta sarà riconosciuta come clandestino. Sì. Pare che anche 5 Stelle, oltre alla Lega Salvini che è brutto e cattivo, si stiano ponendo il problema di ma questo. Possiamo permetterci di accoglierne 2500 al giorno? No, oppure sa perché, bisogna Salvini, intervenire a livello internazionale? Politicamente poi spero dicono, che le parole seguano il no, passo. No, certo, politicamente dicono la Lega magari si potrà in una previsione futura avvicinare al 5 Stelle, non a Berlusconi. Guarda che lei a Bruxelles, ma oggi ci sono pieni articoli di Berlusconi. Ma li ha visti, li ha visti. Sì, li ha visti. Lo sapevo che diceva che non l'aveva visto. L'idea di Berlusconi sarebbe mai più con Salvini. Tutto, ma con Salvini mai. Allora, mai, da una... mai, cosa mai, ho fatto? No, no, da una parte questo non lo dobbiamo sapere noi. Da una parte c'è questa ricostruzione, dall'altra nello stesso articolo io la domanda che le dobbiamo fare è cosa pensa, oltre a questa cosa di Salvini, ma è perché si perde con Salvini l'Europa, l'euro, bla bla bla. Ma cos'è, un articolo di giornale? Sì, lo so. Vabbè, ma è la stampa. Ma no, però c'è, no, però c'è la rivelazione Salvini del nuovo simbolo, un pero definito l'albero degli zoccoli. No, sto scherzando, adesso lei se non l'ha letto davvero, cosa che non credo, l'albero delle libertà, farà finta l'albero delle libertà, cioè fa vedere a tutti i suoi alleati l'albero con le radici, un la democrazia, pero, il pero, il pero, le pere, le mele, Forza Italia si trasformerebbe come simbolo in un pero, che così leggiamo stamattina Però il pero è un albero dignitoso, a me gli alberi da frutto, il ciliegio, l'albicocco, il nespolo, a me piacciono tutti gli alberi da frutto più di quelli ornamentali, quindi forse è una scelta, quindi direbbe il giornalista cattivo, sulle pere potreste tornare ad andare d'accordo. No, non si azzardi a dire queste cose. No, comunque io le ricostruzioni giornalistiche onestamente non le ho lette, dico solo che mi sembrerebbe strano che Berlusconi volesse evitare accordi con Salvini e con la Lega, perché domenica, fra quattro giorni, con 42 gradi all'ombra e le scuole chiuse, si eleggeranno sindaci dove il centrodestra è compatto, a Genova, Verona, Padova, Monza, Roma, Piacenza, Lucca, e quindi se si fa una strada per dare un volto nuovo a queste città, e se vinciamo a Genova, io mi permetto di dire, secondo me il governo Gentiloni salta, perché Genova è amministrata da sempre dalla sinistra, da sempre. Beh, adesso Genova come grimaldello per far saltare. Comunque, se non avessi davvero letto l'articolo, ragazzi, è sulla stampa, e l'articolo è parte proprio con la ricostruzione di un intervento di Totti a Berlusconi, in cui Totti dice: Cavaliere, su, lei non è quello di un tempo, esatto. E la difende l'intesa con la Lega proprio per l'amministrativa. Esatto, dice: o ricuciamo con Salvini, e Berlusconi invece punterebbe a dire: no, basta Salvini. Ma no, guarda, io sono rimasto colpito dal fatto che nel quartiere popolare di Begato a Genova, dove vivono 4.000 persone, non hanno i citofoni, gli ascensori, le caselle della posta, le cantine e l'illuminazione. E non stiamo parlando di Calcutta, ma stiamo parlando di un quartiere popolare di Genova. Quindi io fino a domenica di quello mi occupo, poi leggerò tutte le ricostruzioni giornalistiche sui peri e sui meli. C'era una cosa sulle banche che Oscar ora No, ma siccome a fuori di perdere tempo il governo sta aggravando ulteriormente vicende già gravi per le depredazioni avvenute. Sto parlando delle due banche. Ecco, ma lì sì, la cosa che voglio capire è: voi siete, cioè Borghi dice bisognava statalizzare, nazionalizzare, ma siete ancora di questa linea, oppure che cosa fareste se adesso arrivaste voi? Dice cade il governo, arriva Salvini domani, si trova tutto sto caos ereditato e trascinato per tutto il suo tempo, cosa farebbe sulle due Veneto? No, i risparmiatori salvati da denaro pubblico, i risparmiatori truffati salvati da denaro pubblico. Io sono per meno Stato possibile, lo Stato che fa pochissime cose e lascia la libertà del cittadino tutto il resto. Però ieri, nel silenzio generale, tranne di un quotidiano, se non ricordo male, il governo ha fatto una cosa gravissima, ha per decreto azzerato i risparmi di 9.000 obbligazionisti di Veneto Banca. Sì, sospesi per sei mesi, ma li ha azzerati. Esatto, ma, sì. Ma in Unione Sovietica forse il governo per decreto cancella i risparmi, non di 9.000 speculatori. Oltretutto faccio notare che giustificato come necessario, perché poi bisogna fare un aumento di stato di capitale, di stato precauzionale, ma che invece non si farà, conti. Che invece non si farà, come si legge sui giornali. Quindi uno dice: vabbè, hanno deciso gli aumenti di capitale a carico dei privati, hanno sbagliato i conti, gli hanno chiesto i soldi, adesso non bastano e fottono gli obbligazionisti. Denaro pubblico sì, però in un paese normale Banca d'Italia dovrebbe pagarne le conseguenze perché non ha vigilato. E siccome anche la Banca Centrale Europea qualche quattrino di riserva ce l'ha, ecco, sicuramente gli unici che non dovrebbero pagare sono gli obbligazionisti. Ultima ratio, so che a Oscar farà venire i capelli dritti in testa per quanto gli rimanga, un contributo pubblico, un intervento dello Stato. Gli sono ricresciuti immediatamente i capelli, stiamo parlando dell'artigiano, del falegname che aveva messo lì 30.000 euro perché gli avevano spiegato che erano al sicuro come nella cassaforte di casa sua. Di questo stiamo parlando di speculatori, no, che si vendono e comprano questa... dalla mattina. Salvini, noi la dobbiamo lasciare, però il caso Donnarumma, perché dai, tanto è inutile. Perché... lo sapeva che su questo ci deve una risposta. Il milanista Salvini cosa dice? Vada via mercenario oppure... Torna figlio al prodigo. Lo chiama già Donnarumma o no? Posso dire che la parabola che più mi dispettiva quando andavo a catechismo da bambino era quella del figlio al prodigo. Anche a me, perché però non ho mai capito perché il figlio che si comportava onestamente per tutta la vita poi dovesse essere sopravanzato da quello che era andato in giro per il mondo a far casino, a bere, a donne, e poi tornava a casa e a me stava sulle palle. Io a mia madre che mi menava, diceva che era cattolicismo, diceva, senti, ma quella parabola lì, e lei mi dava un altro ceffone, io non capivo ancora niente. Quindi Donnarumma, Donnarumma con me da sanguigno milanista ha chiuso. Poi non so dietro cosa c'è, ci saranno ragionamenti magari affettivi, familiari che non conosco, non mi interessano, però io non sono per le mezze misure. Se ami un colore, per quel colore dai titolo. E quindi se non ti piace la maglia rossonera, vai, fratello mio, vai, hai 18 anni, non sto lì a fare la retorica dei soldi, che vergogna, sì, non si accontenta di 5 milioni di euro. È sempre tifoso del Milan, lo è sempre stato. Se uno ha il Milan nel cuore non fa problemi ho di capito, soldi, ma non è un tifoso gente come quello lì. Ma l'avete visto in faccia al procuratore di Taparu? L'avete visto in faccia? Ma certo che l'abbiamo visto adesso, ne conosciamo l'operato da anni. Lo giudichiamo lombrosianamente. Anche se io sai che sull'Lombroso, quando Mauro Corona tu lo guarda che tu propendi per l'ombrosismo, va bene. Ringraziamo Matteo Salvini e lo salutiamo. Allora guardi l'albero delle pere, l'albero delle pere, definito anche l'albero degli zoccoli, dal maschile al maschile, maschile plurale. Ci dispiace per l'ascoltatore Elizzi, domani lo recuperiamo se è gentile ad attendere, domani sarà dai nostri, ovviamente tanto sul tema Ius Soli. Si va avanti. Noi invece andiamo al caffè e ci troviamo domani. Va bene? E paghiamo un po'. Dai, io compro un paio. Io non fumo sigarette, ma quasi le compro per così, con lo Stato. Godi, Stato. Perché voi ridete, ma poi fa così, entra al tabaccaio e dice mi dia un pacchetto, devo lo Stato pagare a sete. Lo Stato. Paghiamo un caffè allo Stato. Va bene, a domani.